Le prime udienze dopo la pausa estiva erano andate nella sostanza a vuoto per l'assenza dei testi convocati. Tra i principali il medico mestrino di Ordine Nuovo Carlo Maria Maggi, condannato all'ergastolo per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974, e Sergio Picciafuoco, un personaggio rimasto molto molto oscuro, l'ha definito il presidente della Corte Michele Leoni, condannato e poi assolto per la bomba a Bologna del 2 agosto 1980. Con l'udienza di oggi, mercoledì 3 ottobre, invece è tornato nel pieno il processo in corso davanti alla Corte d'Assise contro Gilberto Cavallini, accusato di concorso nel massacro alla stazione. Sul banco dei testimoni due ex alti ufficiali dei carabinieri, il generale Giorgio Tesser, sentito nel pomeriggio, e il prefetto Mario Mori. Il secondo, che ha deposto in mattinata, ha una lunga carriera nell'arma. Entrato nel 1966, è passato alla tenenza di Villafranca di Verona e poi dal 72 al 75 al SID, i servizi segreti di allora, agli ordini del colonnello Federico Marzollo, il comandante del raggruppamento centri contro spionaggio. Erano gli anni in cui ai vertici dell'intelligence militare c'erano Vito Micheli, coinvolto e poi assolto nel progetto eversivo della Rosa dei Venti, e Gianadelio Maletti, condannato per la protezione accordata ad alcuni dei neofascisti coinvolti nella strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e per questo dal 1981 latitante in Sudafrica. La carriera di Mori però non viene scolpita dalle indagini che negli anni 70 hanno attraversato i servizi segreti, e dopo tre anni trascorsi a comandare il nucleo radiomobile di Napoli torna a Roma il 16 marzo 1978, il giorno della strage di Via Fani, che segna l'inizio del sequestro del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni dalle Brigate Rosse. Nella capitale, Mori comanda fino al maggio 1985 la sezione anticrimine, per poi passare all'ufficio criminalità organizzata, al comando del gruppo carabinieri di Palermo e quindi al ROS, in cui resta fino al 1999, prima come vicecomandante e nell'ultimo anno come comandante. Poi dal 2001 al 2005 fa dirigere il SISTE, il Servizio Segreto Civile. La maggior parte delle domande rivoltegli nel corso del processo Cavallini, soprattutto dagli avvocati di parte civile Andrea Speranzoni, Nicola Brigida e Roberto Nasci, hanno riguardato il periodo trascorso alla sezione anticrimine, dove nel maggio 1985 Mori viene inserito in una rosa di tre ufficiali dei carabinieri ed altrettanti funzionari di polizia che devono collaborare con l'autorità giudiziaria di Bologna, come disposto dai giudici istruttori Vito Zincani e Sergio Castaldo, dopo un incontro con l'allora ministro degli interni Oscar Luigi Scalfaro. Contestualmente viene chiesta anche una serie di attività a cui però il prefetto Mori non dà corso, dato che ad agosto 1985 passa un nuovo incarico. Alla sezione anticrimine non arrivavamo a 40 uomini, ha specificato l'ex generale, spiegando che la maggior parte lavorava sulle versioni di estrema sinistra, di stampo soprattutto brigatista. Responsabile del settore che si occupava del terrorismo neofascista era da allora capitano Nicola Cardoni, a cui Mori rimanda, aggiungendo che è ancora vivo e vegeto, in relazione a diversi episodi di quegli anni. Ha partecipato con lui ad attività che riguardano la collaborazione con la giustizia del nero Walter Sordi, già sentito nell'ambito del processo Cavallini, e la cattura di altri neofascisti come Fabrizio Zani e Paolo Stroppiana. Ma per i dettagli e lo sviluppo delle indagini non ricorda nulla e va fatto riferimento al capitano Cardoni, la cui firma torna, accanto al timbro di Mori, anche in un controverso verbale di sequestro di spezzoni di targhe rinvenuti in un covo dei nari di terza posizione a Torino, in via Monte Asolone. Spezzoni ritenuti compatibili con altri usati per l'auto rubata a Palermo e impiegate il 6 gennaio 1980 per uccidere il presidente della regione siciliana Pier Santi Mattarella, omicidio per il quale sono stati processati e assolti l'attuale imputato a Bologna Gilberto Cavallini e l'esponente di vertice dei NAR Valerio Fioravanti, già condannato all'ergastolo per la strage del 2 agosto 1980. Sul delitto Mattarella, Mori ha dichiarato di non aver mai indagato, nonostante un documento del giugno 1985, due pagine senza intestazione di appunti indicate come allegato S, che accompagnano alcuni atti di indagine svolti nell'immediato dopo l'omicidio del gennaio 1980. Qui si parla di una non meglio specificata richiesta orale sulla posizione di Valerio Fioravanti, avanzata all'allora tenente colonnello Mario Mori dall'autorità giudiziaria. Mori, a distanza di decenni, ribatte secco: non mi ricordo nulla. La richiesta orale, nella realtà dei fatti, è stata poi recepita dall'altro testo sentito oggi, il generale dei carabinieri Giorgio Tesser, che rispose ai tempi ai magistrati che chiedevano informazioni su Fioravanti. In aula i rapporti in mattinata si sono fatti tesi quando si è fatto riferimento poi alla sentenza pronunciata a Palermo lo scorso 20 aprile relativa alla cosiddetta trattativa Stato-mafia. In quel processo, giunto alla fine del primo grado, Mario Mori è stato condannato a 12 anni di carcere e per questo le domande sono state stoppate dal presidente Leoni. Ma in quella sentenza si parla anche di un bel pezzo della storia degli anni 70, compreso il fatto che negli ambienti neofascisti, sin da quei tempi, si volesse scatenare una campagna di attentati contro le opere d'arte, come poi è avvenuto nella stagione stragista del 1993 al di fuori della Sicilia. Due particolarità hanno poi contrassegnato la deposizione di Mario Mori, durata circa 3 ore. All'interno del SIT, l'esistenza e il peso della loggia P2 di Licio Gelli erano noti dal 1975 e secondo la versione di Mori, le critiche mosse ai suoi superiori Giannadelio Maletti e Antonio Labruna gli valsero l'allontanamento dal servizio. Non mi risposero nemmeno e mi cacciarono, ha ricordato il prefetto, giunto a fine carriera nel 2013. Ma ancora nella sentenza sulla trattativa, le cui motivazioni sono state depositate il 19 luglio scorso, anniversario della strage di Via D'Amelio, si dà una versione diversa di questo fatto. In base alla documentazione vagliata dalla Corte d'Assise di Palermo, infatti, l'allontanamento dal SID di Mori sarebbe stato legato all'inchiesta sul piano eversivo noto come Rosa dei Venti, le cui indagini da Padova sono poi confluite a Roma nel fascicolo già aperto sul golpe borghese del dicembre 1970. Infine Mori, rispondendo alle domande dell'avvocato della difesa Alessandro Pellegrini, ha raccontato anche del lodo Moro. Ne ho sentito parlare, ha detto, e dell'esistenza ne ho avuto la conferma da uno dei protagonisti. Si tratta del colonnello Armando Sportelli, già capo della divisione esteri del SISMI. C'era questo accordo tra gentiluomini sulla parola, ha aggiunto Mori, per evitare attentati. Si chiudeva insomma un occhio sulle attività dell'OLP in Italia. Non so se valeva anche per gli obiettivi ebraici, anzi non valeva.